100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. I mercati finanziari stanno vivendo un buon momento e gli operatori si dicono convinti che sia ripartita una fase toro del mercato azionario, particolarmente riguardante i mercati asiatici. Infatti le piazze cinesi dai minimi di agosto stanno rimbalzando di circa il 20%, e questa situazione è stata rafforzata anche dalla presentazione del piano di azione quinquennale che è stato varato la settimana scorsa dal governo cinese. Andando dall'altra parte dell'oceano, Wall Street per tutta la settimana è rimasta in attesa del dato sulla disoccupazione di ottobre, che è risultato decisamente migliore delle attese. È sceso infatti al 5%, il livello più basso dall'aprile del 2008. Sono stati creati 271.000 nuovi posti di lavoro, ben di più dei 183.000 nuovi impieghi che erano attesi dagli analisti. E così la convinzione di un aumento dei tassi di interesse previsto per dicembre ha spinto il dollaro su tutte le divise internazionali. Buone notizie sono arrivate anche dalla Commissione europea, che ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell'Eurozona per l'anno in corso e per l'anno prossimo. Per quello che riguarda i casi di Piazza Affari, in casa Telecom è scontro ai vertici a causa della scalata dell'imprenditore francese Niel, che detiene ormai direttamente ed indirettamente il 15% del capitale del gruppo italiano. Per rispondere a questa manovra, il consiglio di amministrazione di Telecom ha varato un piano di conversione delle azioni di risparmio in ordinarie, iniziativa su cui la Consob ha puntato i fari, con l'obiettivo di diluire la quota dei francesi, ma comincia a diventare davvero una nuova saga di cui non è certo stata scritta la parola fine con la salita appunto del capitale di Niel. Abbiamo avuto un gruppo di trimestrali, il mercato è stato piuttosto concentrato su questo tema, sono stati promossi i conti di Finmeccanica, mercato più freddo sui conti di Generali, premiate invece Azimut e Mediolanum. Per quello che riguarda gli appuntamenti della settimana, rimangono sotto osservazione i mercati emergenti, in particolar modo dopo la vittoria elettorale di Erdogan domenica scorsa. In questo periodo un'attenzione particolare è rivolta alla Turchia. Ancora tante le trimestrali in arrivo, fra le italiane più importanti Moncler, Popolare di Milano, Exor, Mediaset, Unicredit, Enel e Ferragamo. E arriva anche, ricordiamoli, il giudizio di Standard & Poor's questa settimana sull'Italia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.